Canto 13 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 13. Noi eravamo al sommo della scala, ove secondamente si risega lo monte, che salendo altrui dismala. Ivi, così una cornice lega d'intorno il poggio, come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non gli è, né segno che si paia. Parsi la ripa e parsi la via schietta col livido color della pietraia. Se qui, per dimandar, gente s'aspetta, ragionava il poeta, i temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Poi, fissamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato al muover centro e la sinistra parte di sé torse. O dolce lume, a cui fidanza io entro per lo nuovo cammin, tu ne conduci, dicea, come condur si vuol qui centro. Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci, s'altra cagione in contrario non pronta, esser den sempre i tuoi raggi duci. Quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di là eravam noi già iti, con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volar furon sentiti, non però visti, spiriti parlando, alla mensa d'amor cortesi inviti. La prima voce che passò volando, «Vinum non habent!» altamente disse, e dietro noi l'andò reiterando. E prima che del tutto non si udisse, per allungarsi un'altra, «I sono reste!» passò gridando, ed anche non s'affisse. «Oh, diss'io, padre, che voci son queste?» E com'io dimandai, ecco la terza dicendo, «Amate da cui male aveste!» Lo buon maestro, «Questo cinghio sferza la colpa dell'invidia, e però sono tratte da amor le corde della ferza. Lo fren vuol esser del contrario suono. Credo che lo udirai per mio avviso prima che giunghi al passo del perdono. Ma ficca gli occhi per l'aere, ben fiso, e vedrai gente innanzi a noi sedersi, e ciascun è lungo la grotta assiso. Allora, più che prima gli occhi apersi, guardami innanzi e vidi ombre con manti al color della pietra non diversi. E poi, che fummo un poco più avanti, udì gridar, «Maria, ora per noi!» Gridar, «Michele e Pietro e tutti i santi!» Non credo che per terra vada ancora uomo si duro, che non fosse punto per compassion di quel ch'io vidi poi. Che quando fui sì presso di lor giunto, che gli atti loro a me venivan certi, per gli occhi fui di grave dolor munto. Di vil ciliccio mi parean coperti, e l'un sofferia l'altro con la spalla, e tutti dalla ripa eran sofferti. Così li ciechi, a cui la roba falla, stanno a perdoni a chieder lor bisogna, e l'uno il capo sovra l'altro avvalla, perché in altrui pietà tosto si pogna, non pur per lo sonar delle parole, ma per la vista che non meno agogna. E come agli orbi non approda il sole, così all'ombre dov'io parlava ora, luce del ciel di sé largir non vuole. Ca tutte un fil di ferro il ciglio fora e cuce, sì come a sparvier selvaggio, si fa però che queto non dimora. A me pareva andando pare oltraggio, vedendo altrui non essendo veduto, perché io mi volsi al mio consiglio saggio. Ben sapevei che volea dir lo muto, e però non attese mia dimanda, ma disse: parla, e sii breve ed arguto. Virginio mi venia da quella banda della cornice onde cader si puote, perché da nulla sponda s'inghirlanda. Dall'altra parte m'eran le devote ombre, che per l'orribil costura prevevan sì che bagnavan le gote. Volsimi a loro, ed, o gente sicura, incominciai, di veder l'alto lume che il disio vostro solo è in sua cura, se tosto grazia risolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scenda della mente il fiume, ditemi, che mi fia grazioso e caro, s'anima è qui tra voi che sia latina, e forse a lei sarà buon s'io l'apparo. O frate mio, ciascuna è cittadina d'una vera città, ma tu vuoi dire che vivesse in Italia peregrina? Questo mi parve per risposta udire più innanzi alquanto che là dove io stava, ond'io mi feci ancor più là sentire. Tra l'altre vidi un'ombra ch'aspettava in vista, e se volesse alcun dir come, lo mento a guisa d'orbo in su levava. Spirto, diss'io, che per salirti dome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammiti conto o per luogo o per nome. Io fui sanese, rispose, e con questi altri il mondo qui la vita ria, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui avvegna che sapia fossi chiamata, e fui degli altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non credi ch'io t'inganni? Odi se fui, com'io ti dico, folle. Già discendendo l'arco dei miei anni, erano i cittadini miei presso a colle in campo giunti con loro avversari, ed io pregava a Dio di quel che volle. Rotti fur quivi e volti negli amari passi di fuga, e veggendo la caccia, letizia presi, ad ogni altra dispari, tanto che io volsi in su l'ardita faccia gridando a Dio: omai più non ti temo, come fe il merlo per poca bonaccia. Pace volli con Dio in sullo stremo della mia vita, ed ancor non sarebbe lo mio dover per penitenza scemo, se ciò non fosse che a memoria m'ebbe Pier Pettinagno in sue sante orazioni, a cui di me per carità deincrebbe. Ma tu chi sei che nostre condizioni vai dimandando, e porti gli occhi sciolti, sì com'io credo, espirando ragioni? Gli occhi, diss'io, mi fieno ancor qui tolti, ma piccio il tempo, che poca è l'offesa fatta per esser con invidia volti. Troppo è più la paura onde è sospesa l'anima mia del tormento di sotto, che già non carco di laggiù mi pesa. Ed ella a me: chi t'ha dunque condotto quassù tra noi, se giù ritornar credi? Ed io: costui che meco e non fa motto, e vivo sono, e però mi richiedi, spirito eletto, se tu vuoi che io muova di là per te ancor li mortai piedi. Oh, questa è a udirsi cosa nuova, rispose, il gran segno è che Dio t'ami, però col prego tuo talor mi giova, e chieggioti, per quel che più tu brami, se mai calchi la terra di Toscana, ch'a miei propinqui tu ben mi rifami, tu li vedrai tra quella gente vana che spera in Talamone, e perderar di più di speranza ch'a trovarla Diana. Ma più vi metteranno gli ammiragli. Fine del canto 13.